Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione. L'appuntamento rimane confermato a domenica prossima, naturalmente non prima di aver ringraziato Cristiano Valli per la consueta cortissima regia, nonché Marco Valli per il conforto della sua presenza. Arrivederci a tutti.